bella, più bella stasera, Mariù. Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino, domani sarà. Oggi ti sono vicino perché sospirar, sì perché parlami d'amore, Mariù, tutta la mia vita. Gli occhi tuoi belli brillano, fiamme di sogno scintillano, dimmi che illusione non è, dimmi che sei tu.